San Giovanni. Willy Breck che canta nella nebbia con solo i tuoi 30 anni. Lontane sono le torri di Milano, le sue luci cieche. Giovanni.